Epinar, sociologa militante femminista antimilitarista e turca, lotta da 14 anni contro l'accattimento. Il 24 janvier 2013, elle risque la prison à perpétuité. Ses avocats et ses soutiens sont nombreux et nous pouvons empêcher cette condamnation. Il 24 gennaio 2013, Epinar. A un'udienza. A un'udienza, no. Scusate. Teme di essere condannata all'ergastolo e noi possiamo evitare e impedire questa cosa. Mais dans un rapport de force contre l'État, il faut être encore plus nombreuse et nombreux. Ma per un rapporto di forza contro lo Stato dobbiamo essere più numerose e più numerosi. Le 24 janvier 2013, soyons à Istanbul. Il 24 gennaio 2013, dobbiamo essere a Istanbul. Le 24 janvier 2013, soyons là pour empêcher cette condamnation. Dobbiamo esserci per impedire la condannazione. Condanna. Epinar lotta per la giustizia, per la pace, per tutti e per tutte. Solidarietà internazionale per Epinar. Epinar Selek non è da sola. Se volete farte parte della delegazione a partecipare alla sottoscrizione, potete contattare per noi il Comitato Romano, da cui adesso diamo le dati. E dunque, continuiamo solo a leggere il comunicato del collettivo di sostegno a Epinar, il collettivo di Roma. Eh sì, si sono infatti si è costituito un comitato anche qui in Italia, sta girando un comunicato in questi giorni che recita: Istanbul, 24 gennaio 2013, prossima udienza del processo contro Epinar Selek. Non si contano più gli appelli, gli articoli e le denunce internazionali contro lo Stato turco per la persecuzione di Epinar Selek. Femminista, antimilitarista, pacifista, da 14 anni Epinar è diventata bersaglio della repressione turca a causa di una sua ricerca sociologica condotta nel 96 sulle condizioni del conflitto armato tra la Turchia e il Kurdistan e le possibilità di soluzione. Il 13 dicembre del 2012 c'è stato l'ultimo atto di questo processo kafkiano che ha visto l'ennesimo rinvio al 24 gennaio 2013 alle ore 10 presso la 12ª sessione della Corte Penale di Istanbul, con la richiesta illegittima di una nuova condanna a 36 anni di carcere per Epinar, nonostante le precedenti assoluzioni. Epinar non ha accettato in tutti questi anni di rimanere in silenzio e in casa e per questo viene perseguitata. Noi, con lei, continuiamo ad urlare che la sua lotta contro l'oppressione e la violenza dello Stato turco è la lotta di tutte noi contro l'oppressione patriarcale istituzionale, che la sua passione per la libertà di tutte e tutti è anche la nostra e che la solidarietà è la nostra forza e sicurezza. L'udienza del 24 gennaio sarà l'ultima e noi possiamo impedire questa condanna. Facciamo in modo di essere numerose a Istanbul il 24 gennaio. La presenza di una delegazione internazionale di vitale importanza perché i riflettori siano ben accesi sullo scandaloso processo e la forza della solidarietà internazionale pesi sulle spalle della Corte Penale. La delegazione, insomma, dovrà essere numerosissima. Se volete unirvi alla delegazione o comunque sottoscrivere per le spese di viaggio o anche avere, diciamo, informazioni sulla vicenda di Epinar, potete guardare il blog solidarietapinarselec.noblogs.org. Poi trovate anche le mail a cui inviare appunto richieste e domande al comitato o appunto se vi volete aggregare alla delegazione che comunque sta partendo. Sì, per concludere volevo mandare il suo appello, l'appello di Epinar, che spiega un po' che aspetta. Parce que tous les pays, tous les cercles on ces actualités, alors tu peux protester contre ça. Perché in tutti i paesi ci sono attualità e puoi sempre protestare su tutto. Mais quand tu dépasses, vraiment tu deviens forte. Ma quando vai oltre, e parla di andare oltre le frontiere, i confini, diventi molto forte. Una cosa più importante, ici je suis dans le mouvement féministe, etc., et dans le mouvement pour les libertés, etc. E una cosa molto importante qui, perché lei sta in Francia, sono nel movimento femminista, nel movimento di tutte le movimento per la libertà, e sto bene. E je suis plus utile en Turquie. Ma sono più utile in Turchia. Et je crois que je serai plus active que maintenant, et je crois que plus active que avant aussi, parce que... E penso che sarei molto più attiva che adesso, e anche sicuramente più attiva che prima. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup rinforcé. Qui ho imparato molto, ho rinforzato molto. Et je crois qu'avec cette force, les ponts entre les luttes seront plus forts. E penso che con questa forza i ponti tra le lotte saranno ancora più forti. Et je vais faire tout ce que je peux faire, mais il faut que je rentre. E voglio fare tutto quello che posso fare, ma voglio ritornare in Turchia. Allora, je voudrais bien que le 24, parce que c'est le dernier, ça va finir. Allora, vorrei che il 24, perché è l'ultimo, perché questo deve finire. 24 janvier, et je voudrais bien que vous alliez en Turquie pour... E dunque io vorrei che voi andate in Turchia. Après, pour m'envoyer en Turquie, parce que je veux y aller. Per fare che io posso essere rimandata in Turchia, perché io voglio tornare. J'aime bien la France, j'aime bien lutter ici aussi. Mi piace la Francia, mi piace muovere, mi piace lottare dappertutto. Je serai mieux en Turquie. Il faut que vous y allez pour que après je vous quitte. Ma sarei molto meglio in Turchia e voi dovete andare per fare in modo che poi io vi lascio. E dunque la nuova udienza al processo a Istanbul il 24 gennaio 2013 alle ore 10. Sì, aggiungo proprio una postilla, ovviamente è una delegazione andrà, quindi nei giorni del processo pensiamo che la radio seguirà insomma la vicenda e darà la notizia. Se volete anche conoscere un po' il pensiero di Pinar e alcune sue riflessioni, potete anche nel blog del martedì mfla.noblogs.org trovare la lunga intervista che abbiamo fatto con lei, divisa in due parti, però è molto interessante, appunto l'antimilitarismo, il femminismo e l'intersezione anche di tutte queste lotte.